Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Ma possibile che non fanno i tamponi? Ci sono le persone ammalate con la febbre, nessun tampone. Gli studenti vengono lasciati a casa perché uno risulta positivo e agli altri nessun tampone, possono andare in giro. Ma è così che vogliamo fermare il virus e poi chiudiamo una palestra? Io sono il genitore di un bimbo di 9 anni che fa sport, primo di contatto, fa calcio. Lo sport per i bimbi, le partite dove c'è il contatto vanno vietate al momento, punto. Cioè, non diciamo delle sciocchezze, protocolli, non protocolli. In Serie A fanno 3 tamponi e comunque ci sono dei positivi. Come si fa a dire che nelle scuole non ci si contagia? Chi li dà questi dati? Perché io parlo da genitore di 2 bambini piccoli, ma se io accompagno con i mezzi i miei figli a scuola, io prendo i mezzi, li accompagno a scuola, vedo i genitori, vado al bar sotto la scuola, parlo con gli insegnanti. Purtroppo De Luca ha tagliato la testa al toro, cerca di tagliare la testa al toro. Sì, ma è un tagliare la testa al toro esattamente sul tema dei trasporti, caro ascoltatore. Io capisco benissimo il ragionamento, ma i numeri sono inequivocabili. Cioè, lo stesso De Luca ha detto l'altro giorno che in Campania ci sono 800 contagiati tra studenti e personale scolastico, che siano docenti o personale non docente. Ebbene, la popolazione che frequenta le scuole in Campania ammonta a 950.000 persone, il che vuol dire che i contagiati riscontrati all'interno di questo gruppo di persone ammontano allo 0,08%. I numeri su questo non mentono. Non solo, ma le scuole su questo fronte, se i genitori sono persone responsabili e non mandano i figli a scuola quando hanno il raffreddore, sono degli ambienti molto più controllati, per esempio, di un autobus, ovviamente. Quindi, certo che De Luca ha tagliato la testa al toro, ha eliminato un fattore di rischio che è soprattutto quello del trasporto pubblico, molto più che quello della scuola. Però ci sarà consentito esprimere qualche perplessità sul fatto che si torni alla didattica a distanza soprattutto per i più piccoli. Magari si poteva pensare per le scuole superiori, come qualcuno aveva un elemento sul quale qualcuno aveva già riflettuto. Sul fronte dello sport, vabbè, abbiamo detto all'infinito, forse da quel che abbiamo capito ci si può allenare senza contatto e quindi senza la partitella finale. Bene così, l'importante è che questi ragazzi abbiano anche un'altra valvola di sfogo, no? Che non sia solamente lo stare a scuola o stare a casa, o stare a casa a fare didattica a distanza. Beh, per come la vedo io, poi. Per quello che ci hanno sempre detto i pediatri in questi anni e i medici in questi anni, visto che passa la nostra popolazione giovanile per essere una tra le più obese d'Europa, o più sovrappeso, o più sedentaria, quantomeno. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 20 ottobre, sono le 7:22 minuti e al microfono c'è sempre Simone Spezia. I titoli sono praticamente tutti per la Lombardia, per questa ipotesi, anzi più che un'ipotesi, è quasi una certezza, di un coprifuoco dalle 23 alle 5 che dovrebbe scattare da giovedì, immaginiamo giovedì sera. Lombardia coprifuoco dalle 23, il titolo del Corriere della Sera. Il quotidiano nazionale, ora la Lombardia vuole il coprifuoco. Lombardia flop costretta a chiudere, il titolo del Fatto Quotidiano. Coprifuoco in Lombardia, quello della Repubblica. Coprifuoco comincia la Lombardia e la Stampa, che quindi fa presagire qualcos'altro. Coprifuoco in Lombardia, il titolo del Giornale. Sono tutti uguali praticamente. Zona notte, se si fa eccezione per il Manifesto, Zona notte è il titolo del Manifesto. Movida la stretta dei sindaci, il titolo del Messaggero. Governo ubriaco è il titolo di Libero. scemenza, dopo le 18 non si può comprare vino. In realtà questo era già contenuto nell'ordinanza della Lombardia di due giorni fa, eh? La verità, Conte e PD si fanno la guerra sulla pelle degli italiani. Il Sole 24 Ore titola sul presidente di Confindustria Bonomi che dice l'Italia lasciata in confusione. Questo è il titolo. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso, poi toccheremo il tema Covid, toccheremo anche un po' il tema della politica, perché l'altra grande direttrice di questa giornata è lo scontro ancora una volta tra PD e Presidente del Consiglio, o meglio non ancora una volta, in realtà un elemento nuovo, lo scontro tra il PD e il Presidente del Consiglio. Su cosa? Sul MES, sul fondo salva stati. Le parole di Conte l'altro giorno in conferenza stampa hanno irritato fortemente il PD. E però Conte ha trovato una sorta di sponda nel ministro dell'economia Gualtieri, dall'altra parte Zingaretti si è arrabbiato, si parla di un'ipotesi di Zingaretti e Di Maio vicepresidenti del Consiglio, di nuovo, poi c'è tutta la questione Calenda, vabbè, qualche elementino di politica ve lo daremo, ve lo darò. Però fatemi iniziare come sempre da qualcosa di diverso, e questo qualcosa di diverso riguarda una vicenda che ci dà l'idea della cecità della burocrazia, e siamo a pagina 11 di Libero con Simona Pletto che ci racconta la vicenda di Danila Pollara. Chi è Danila Pollara o Pollara? 66 anni, pensionata di Moncalieri, città metropolitana in provincia di Torino. Il 18 marzo 2015 era al Museo del Bardo in Tunisia, a Tunisi, lo ricorderete, là dove vi fu una strage, una carneficina rivendicata dallo Stato Islamico, in cui persero la vita 24 persone, tra cui 21 turisti, di cui 4 italiani. Danila Pollara rimase ferita da una scheggia di una granata in una gamba e da un proiettile nell'altra. A farle da scudo, i cadaveri sotto i quali era rimasta sepolta per circa 2 ore prima di essere salvata. Cosa è successo? Che la turista torinese rimase ricoverata parecchi giorni all'ospedale Le Molinette di Torino, venne inserita tra le vittime dell'attentato insieme ad altri feriti e ai familiari delle vittime italiane, tanto che nel 2016 una commissione medica le riconobbe l'invalidità permanente, del resto era stata ferita ad entrambe le gambe. Lo Stato italiano le riconobbe un'invalidità del 30%, 2.000 euro per ogni punto di invalidità e un vitalizio di 500 euro. Ma cosa è successo? È successo che lo Stato si è accorto che quel vitalizio non le spettava perché per un errore le erano state applicate tabelle per gli indennizzi valide fino al 2004. Il danno morale, secondo quelle recenti, valeva meno, la sua invalidità è scesa al 20%, la cosa ha fatto saltare il vitalizio, morale della favola, deve restituire 14.000 euro. Ovviamente non per colpe sue, perché semplicemente lo Stato si è sbagliato nell'assegnarle il vitalizio. Devastante, commenta e rimarca, lo Stato secondo me sa proteggere i propri cittadini, ma sa anche tradirli, non so, lo Stato in una delle sue articolazioni, nella fattispecie appunto la cieca burocrazia. Vi segnalo che oggi in Parlamento, nel Parlamento europeo, si apre una discussione che è la seguente. Un hamburger di tofu si può chiamare hamburger oppure deve avere un altro nome perché confonde le idee e si tratta di un vegetale e quindi non può essere carne? Lo racconta bene il Messaggero a pagina 16. Oggi il Parlamento si riunisce per votare la piccola rivoluzione lessicale. I termini che fin dalla notte dei tempi hanno designato l'universo dei carnivori, i vari bistecca, salsiccia, burger, polpette, scaloppine, non potranno essere usati per definire gli equivalenti prodotti senza carne. Il dibattito tuttavia non è chiuso, non tutti sono d'accordo. Una corrente linguisticamente più accomodante ritiene che vietare di chiamare una salsiccia il prodotto vegano che della salsiccia ha la forma, quasi il sapore e persino la consistenza, pur in totale assenza di maiale, significa semplicemente rendere più complicata la vita del consumatore. Tanto più che la dicitura vegetale appare sempre in bella evidenza. E il gusto della salsiccia di maiale e quello della salsiccia di soia, sostiene Francesca Pierantozzi in questo pezzo, riportando alcune opinioni naturalmente, sono difficilmente confondibili. Per gli agricoltori e soprattutto per gli allevatori, in compenso l'affare importante non ammette compromessi. Dice per esempio il gastronomo Laurent Mariotte, dice La definizione di stick è pezzo di manzo da grigliare. Le parole sono importanti in cucina e nella vita. È solo marketing, diciamo la verità. È solo per sedurre il consumatore che chiamano il trancio vegetale uno stick. Dall'altra parte l'Unione Vegetariana Europea che dice che molti produttori ritengono che i termini familiari come burger o stick aiutino a dare un'identità ai loro prodotti, creando un'aspettativa sulla forma, sull'odore, sul gusto e sulla consistenza. Vedremo come voterà il Parlamento europeo. Capitolo giustizia, perché un po' in questa fascia della trasmissione, come sapete, tendiamo ad occuparcene. E il primo elemento sul quale vi voglio portare, è l'ennesima vicenda di giustizia un po' lenta, e qua restiamo, ne parlano su Libero Tiziana Pelosa e Alessandro Darold sulla Verità, è la vicenda dei secessionisti del Tanco, i secessionisti veneti, ve le ricorderete con quella specie come possiamo definire, un carro armato artigianale, Il processo ai secessionisti del Tanco salta ancora, la farsa dura da 6 anni, titola Alessandro Darold, e Tiziana La Pelosa ce lo chiarisce meglio nel titolo. Accusate di terrorismo per il famoso trattore blindato, gli indipendentisti veneti vanno a processo, udienza preliminare dopo 6 anni, cioè la prima udienza preliminare dopo 6 anni, 6 anni ci sono voluti per la sola udienza preliminare. Il 2 aprile del 2014 blitz dei carabinieri contro un gruppo secessionista veneto, lo ricorderete, accusato di aver messo in atto iniziative anche violente per ottenere l'indipendenza del Veneto, 24 arresti, reati di associazione con finalità di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, il famoso Tanco, un mezzo eclatante da utilizzare per un'azione eclatante in Piazza San Marco, un trattore agricolo trasformato in una sorta di mezzo corazzato. Ebbene, l'udienza preliminare, solo l'udienza preliminare, arriva dopo 6 anni. E a proposito di giustizia, ci sono altri 2 elementi. Vi porterei innanzitutto sul pezzo di Antonio Esposito e poi transitiamo sulla vicenda di Davigo, perché è la vicenda che trovate un po' su tutti i quotidiani, perché per certi versi la fine di un'era all'interno della magistratura. E però, dato che qua ce ne siamo occupati spesso, quello su cui ritorna Antonio Esposito, del quale non vedo dettagli, ma suppongo che sia il magistrato Antonio Esposito che firma un pezzo sul Fatto Quotidiano a pagina 11, è il tema dei concorsi in magistratura. Vi ricordate, ce ne siamo occupati nei giorni scorsi, no? Quelli con gli errori di ortografia, quelli che erano stati esaminati in solamente 3 minuti dalla commissione esaminatrice, nonostante fossero 3 temi giuridici di carattere diverso per ognuno. 3 minuti, praticamente impossibile correggerli e verificarne la correttezza, alcuni con gli schemini al posto delle parole. Ci torna Antonio Esposito, che dice: dopo la denuncia di queste irregolarità ci si sarebbe aspettato un intervento del CSM e del Ministro di Giustizia, il quale ha detto solamente che a lui spetta la verifica, per così dire, formale. Chi invece è intervenuto è l'ANM, che attraverso il suo presidente ha così pontificato: gli attacchi all'onorabilità dei componenti della commissione esaminatrice sono irricevibili, è un tentativo di delegittimazione dell'intero ordine giudiziario. Commenta Esposito: stucchevole ritornello, buono per tutte le occasioni. Ma è così difficile capire che è proprio l'immissione nell'ordine giudiziario di magistrati ignoranti a delegittimare l'ordine stesso? Perché questi errori di sintassi, di ortografia, di diritto fanno venir meno la fiducia dei cittadini in ordine all'effettiva preparazione dei magistrati e quindi alla loro sicura professionalità, requisito che deve sempre caratterizzare l'alta e delicata funzione? Come dargli torto? E infine la vicenda Davigo. Ma dato che dobbiamo dare la pausa, diamo la pausa e poi ci arriviamo. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Quattro mattino. verità è che i sindaci, specialmente nei piccoli centri, non vogliono inimicarsi magari i collettori di voti che sono proprietari dei locali della movida. Questo invece se lo fa il governo non è colpa loro. Oh, comunque non siamo mai contenti, Simone. Allora, se chiudevano tutto non andava bene, se adesso chiudono dalle 23 alle 5 non va bene. E allora? Come la mettiamo? Oh no, va bene, chiusura 23, anzi io avrei anche fatto chiudere un lockdown ancora maggiore. C'è chi è di quest'idea, e devo dire la verità. Il punto è che non è escluso che ci si arrivi. Adesso arriveremo alle cronache da Covid. Fatemi solo rapidamente dare un'occhiata alla vicenda da Vigo, perché tanto poi ce ne siamo occupati e poi ci torneremo dopo, con Paolo Mieli ovviamente nello spazio alle 8:15, perché tanto ce ne siamo occupati. Per Camillo da Vigo, uno dei giudici più amati e odiati d'Italia, probabilmente uno dei magistrati più amati e odiati d'Italia, tra chi lo ritiene un grande simbolo anticorruzione e chi invece un simbolo delle manette fini a se stesse. Ebbene, da ieri non è più in forza al Consiglio Superiore della Magistratura. Qual era il punto? Il punto era che al compimento dei 70 anni, oggi, se ci ascolta auguri naturalmente, al compimento dei 70 anni va in pensione da magistrato. E la domanda era: può rimanere membro del Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo di autogoverno dei magistrati? Ebbene, i suoi colleghi del CSM hanno deciso di no, fatti salvi i tre collegati alla sua corrente. Se volete cronache dettagliate le trovate un po' dappertutto, da un lato Il Giornale, da un lato a pagina 13 con Stefano Zurlo, dall'altro a pagina 15 del Fatto Quotidiano Antonella Mascali, la quale ci racconta, tra le altre cose, per andare un po' rapidi, a quanto pare da Vigo presenterà ricorso al TAR contro questa decisione. Chi ha votato per la decadenza di da Vigo? In molti, compreso Nino Di Matteo, compreso il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini, il quale ha dichiarato stima per da Vigo, addirittura amicizia nei confronti di da Vigo, ma dice: non possiamo permetterci di averlo là, perché tra l'altro, secondo uno dei membri di diritto, presidente della Corte di Cassazione, se non vado errato, dice il punto è: verrebbe a mancare l'equilibrio che la Costituzione ha previsto tra membri laici e membri togati del CSM. Tutte vicende interne alla magistratura, ma che fanno parte, se volete, di quel grande pacchetto di movimento che si sta attuando dopo la vicenda di Palamara. Ne è un pezzo anche questo, sicuramente. Ne parleremo tra poco poi con Paolo Mieli. Dunque, veniamo al virus, alle cronache dal virus, ovviamente molte sui giornali e molto concentrate sulla Lombardia, naturalmente. Se volete un punto buono dal lato dei contagi e di come stanno andando e di quali sono le preoccupazioni, soprattutto intorno a Milano e all'area milanese più larga, il Corriere della Sera, pagina 3, è il quotidiano perfetto su questo fronte. Stavolta, racconta Stefano Landi, hanno deciso i numeri. Al tavolo con il governatore Attilio Fontana ci sono i sindaci lombardi. Hanno in mano i report che il CTS regionale ha elaborato. Gli scenari virano al brutto. Si parla di un orizzonte di 600 persone, dai 113 di oggi in rianimazione entro fine mese, e di 4.000 ricoverati negli altri reparti Covid. Non c'è molto da discutere e nasce la stretta rispetto alla strettina del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una decisione che ha due facce: per la politica è coraggiosa, sofferta per gli asset sociali, ma necessaria. Per i tecnici che da giorni battono i numeri sul tavolo è meglio di niente, perché avrebbero voluto di più. Antonio Pesenti, coordinatore dell'unità di crisi lombarda per le rianimazioni, dice: ora non c'è un minuto da perdere e serve cambiare marcia. E dunque si arriverà a questo coprifuoco dalle 23 alle 5. Il tema è: ci sono numeri ai quali i reparti non erano più abituati, in particolare per le degenze ordinarie, dato che per arginare la crescita dei pazienti intubati si sta preparando la riapertura dell'ospedale Covid costruito in fiera. Quello che sembrava un lusso e sul quale, lo ricorderete, tante polemiche si sono addensate e adesso improvvisamente serve. C'è l'altro lato, quello che il Fatto Quotidiano chiama e titola come Lombardia flop, e questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano, il quale racconta anche il tema delle USCA, delle unità territoriali, quelle che devono tenere sotto controllo i pazienti Covid che rimangono a casa e che non vanno in ospedale, USCA, unità territoriali che sono ridotte, sono un quarto di quelle che servirebbero sul territorio lombardo. E poi due economisti, Tito Boeri e Roberto Perotti, che firmano un pezzo a pagina 4 sulla Repubblica che ci dà un altro dettaglio rilevante sul quale ragionare. Il titolo è questo: quei premi ai manager che hanno tagliato i letti Covid lombardi. Cosa vuol dire? Vuol dire questo: che passata l'onda iniziale della pandemia, la Regione Lombardia ha chiesto di recuperare il tempo perduto per tutti quelli che hanno dovuto saltare delle visite. Nel mezzo della pandemia la Regione Lombardia ha posto tra gli obiettivi dei dirigenti generali degli ospedali quello di recuperare le prestazioni di specialistica ambulatoriale fortemente ridotte a causa dell'emergenza Covid, fino a raggiungere una produzione pari ad almeno il 95% di quella del secondo semestre 2019. Questo obiettivo vale per il 25% della valutazione finale dell'operato del direttore generale, da cui dipende la corresponsione di un premio di produzione, che può arrivare fino ad un quarto del suo trattamento economico. Dunque, l'obiettivo salariale potrebbe aver spinto i dirigenti della sanità lombarda, in questo incentivati, a tagliare posti Covid per recuperare tutte, per assegnare questi posti alle prestazioni specialistiche che erano saltate nel periodo acuto della pandemia in marzo e in aprile. Così scrivono appunto Boeri e Perotti. Oh, poi c'è molto altro su questo tema. C'è sicuramente tutta la parte dello sport, ne abbiamo parlato alle 6.45. Giovanni Rossi a pagina 5 del Quotidiano Nazionale ci dice: sì agli allenamenti, il titolo è sì agli allenamenti ma senza partitelle, una babele di regole, lo sport è nel caos. La realtà è che, come abbiamo sentito anche alle 6.45, nessuno sa esattamente che cosa fare. Come riprendono gli allenamenti, come quelli dei ragazzi, come quelli dei giocatori, delle persone più adulte, di chi fa sport a livello un po' più alto. È decisamente complicato, e queste norme confuse e tra l'altro a livello regionale, diverse a livello regionale, non stanno aiutando il traffico. Mattino. Allora, dedichiamoci un po' di politica, va? Dedichiamoci un po' di politica che ci porta soprattutto, almeno per il momento. Allora, partiamo dalle amministrative. Partiamo dalla questione delle amministrative. Roma e Napoli. Su Roma di Calenda abbiamo detto tutto il possibile e poi tra un attimo ci torniamo, lo avremo nostro ospite nei prossimi giorni, parleremo con lui e ci faremo raccontare un po' questa cosa. Calenda insiste no alle primarie, divide i Dem, titola il Corriere della Sera, e accanto ci mette un pezzo su un nuovo ingresso e una nuova possibilità di arrivo sulla scena. Antonio Bassolino, nuovo si fa per dire naturalmente, l'usato strasicuro. Bassolino avanza, vedrò che fare, imbarazzo nel Partito Democratico. E il pezzo è di Simona Brandolini, l'ex sindaco di Napoli ed ex presidente della regione, ha introiettato l'adagio latino gutta cavat lapidem, ossia la goccia scava la roccia. Quindi passo dopo passo, come una goccia, con cadenza puntuale, scrive un post su Facebook, un cinguettio su Twitter, dissemina indizi, insomma, che riconducono sempre a Palazzo San Giacomo. Un giorno parla delle condizioni pessime nelle quali versa la città, un altro si fa immortalare nel cinematografico parcheggio plebiscito di Paolo Sorrentino, l'altro ancora si indigna per i ritardi del 140, busca lo scarrozza da Posillipo al centro. E insomma, l'idea che Bassolino si possa ricandidare a sindaco di Napoli inizia a circolare. A proposito di Calenda, vabbè, vi segnalo questa pagina feroce del Fatto Quotidiano, al quale Carlo Calenda non piace per niente, però così è, nella quale pubblica con Giacomo Salvini tutta una serie di dichiarazioni di Calenda. Una ve l'abbiamo fatta sentire prima sulla sua ipotesi di candidatura a sindaco di Roma. Non farò il sindaco di Roma neanche morto. Mi piace molto il lavoro che faccio con Paolo Gentiloni. E ancora, escluso che mi candidi, voglio candidarmi alle europee 2019. Mi candiderò, prima di occuparsi di Roma bisogna pensare all'Italia. Mi candiderò a Strasburgo, ripeto, ora la priorità è l'Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Nella stessa pagina però c'è da segnalare questo pezzo che ci racconta un po' la marcia di avvicinamento del Movimento 5 Stelle ai cosiddetti stati generali, che sono un po' il loro congresso per intenderci, eh? Luca De Carolis, il manifesto dei Big 5 Stelle, decrescita e spazio ai migranti. 5 Stelle diversi da ciò che erano, li racconta in una frase il sociologo Domenico De Masi. In questa ricerca l'uno vale uno non l'ho ritrovato da nessuna parte. Non c'è più quel motto che pareva fondativo del Movimento 5 Stelle, esplorato da Dopo il coronavirus, la cultura politica del Movimento 5 Stelle. Testo costruito da De Masi su commissione della senatrice Barbara Floridia, referente per la formazione vicina a Luigi Di Maio. E dunque ci sono questi tutti questi elementi, no? Noi non siamo per la decrescita felice, dice Floridia, come molti dicono, ma per una crescita sana, anche se poi il documento ne parla e come di decrescita. Chissà quanto questo è conciliabile con l'altra anima della maggioranza. Altra anima della maggioranza è con la quale sta avendo dei momenti di tensione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Parliamo del Partito Democratico. Allora, qua andiamo sul Messaggero, pagina 11. Lo scontro sul MES, Zingaretti e Di Maio vice, per Conte una verifica insidiosa. Attenzione, si tornano a utilizzare i vecchi termini. Oddio santo. La verifica di governo, il rimpasto di governo. E l'ipotesi di Zingaretti, vicepresidente del Consiglio, che l'aveva esclusa solo 2 settimane fa, e Di Maio che ridiventa vicepresidente del Consiglio. Queste sono le storie, le cose delle quali si parla in questo momento, all'ombra però di uno scontro che è un po' più concreto, perché è quello sul fondo salva stati. Le parole di ieri del presidente del Consiglio, del presidente del Consiglio, nel illustrare e nel dire di fatto che il MES al momento non è interessante, hanno suscitato l'irritazione del Partito Democratico, con Zingaretti che ha detto queste cose non si dicono in conferenza stampa. La cronaca puntuale la trovate sul pezzo di Manuela Perrone a pagina 10 del Sole 24 Ore, e altrettanto puntuale il commento Irina Palmerini in Politica 2.0, un patto di legislatura e dilemmi finanziari, dove Lina Palmerini ci illustra esattamente questo, esattamente quelle che sono un paio di scivolate del Presidente del Consiglio, scivolate proprio nella gestione politica della maggioranza, non è un riferimento alla fattualità. Da questa pandemia si ricava almeno una certezza, scrive Palmerini, che senza governare con coesione si rischia il caos. E su questo Conte è inciampato. Perché se domenica si era guadagnato l'intesa con le regioni sulle nuove misure del decreto, si era però aperto un fossato con il PD da un lato e con i sindaci dall'altro, su cui ha corretto la rotta ieri rivedendo il protocollo con i comuni e lanciando un patto di legislatura per ricucire con la maggioranza. Questa volta potrebbe non essere una formula del rito politichese, perché la collaborazione non è una questione di educazione istituzionale, ma un fatto sostanziale. Come si fa ad evitare un nuovo lockdown se tutta la catena di comando, da Palazzo Chigi agli enti locali fino ai cittadini comuni, non funziona con coerenza rispetto alle misure decise? Il metodo è cruciale. In questo senso, aver liquidato il MES mettendo un dito nell'occhio del PD è stato un errore, visto che il Premier si è portato in casa un conflitto non necessario. Così Lina Palmerini, poi il pezzo prosegue ed è ampiamente suggerito. Rimaniamo sul Sole 24 Ore, che dedica l'apertura alle parole del presidente di Confindustria, Bonomi, che, come racconta Nicoletta Picchio nel suo pezzo, nell'appuntamento di ieri all'Arena di Verona, ha detto: provo sconforto per un paese in confusione. Noi italiani meritiamo chiarezza, abbiamo dimostrato senso civico e di sacrificio, dice Bonomi. Non possiamo accettare un altro giorno dove basta una conferenza stampa su un nuovo DPCM per lasciare un paese senza indicazioni, ha esordito il numero uno di Confindustria, riferendosi all'incontro con i giornalisti del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Economia di ieri pomeriggio. Il riferimento, dunque, è alla manovra. L'affondo è andato oltre. Giudicando le anticipazioni, siamo ancora nella fase di emergenza. Non c'è quella prospettiva di ripartenza necessaria al rilancio strutturale del paese, in ritardo su PIL e produttività, così Bonomi, e così lo racconta Nicoletta Picchio. Infine, fatemi chiudere con una cosetta più leggera, se ce la facciamo. La trovate un po' dappertutto, però ragazzi, la storia è divertente, è quella che Valeria Braghieri racconta come la fine della professione della mantenuta. Cosa è successo? Che un magnate iraniano è andato dal giudice per riavere i soldi investiti in... nel rapporto con Sara Croce, la bonus di Avanti un altro, il programma in onda sulle reti Mediaset condotto da Paolo Bonolis, è chiamata a rispondere in solido con la madre Anna Maria Pollucci di una cifra che va oltre il milione di euro per aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto. Lui, per contro, deve rispondere di stalking. GR24, ci risentiamo tra poco. Avremo, come al solito, l'appuntamento con Paolo Mieli. Torneremo a parlare di sindaci e dei poteri che hanno col sottosegretario all'interno e poi Giulio Gallera, l'assessore alla sanità della Lombardia. Tra poco. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta? Non la lascia più. Vai su aruba.it.